saluta solo con i guanti. E qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao Como, sono Andrea Paolo di Allineamenti. Pochi giorni fa sono stato allo sciopero per il clima, ma di questo tema vi parlerò in una prossima puntata. Perché siamo esseri umani e la nostra prima priorità è di avere un tetto e del cibo. E soltanto dopo aver soddisfatto i nostri bisogni primari, abbiamo la mente sgombra per soddisfare le nostre inclinazioni o di fare qualcosa di buono per gli altri o per il clima. Quindi l'argomento di cui parlo oggi è come guadagnare dei soldi e mi rivolgo ad un piccolo risparmiatore che non vuole rischiare i propri risparmi. In particolare vi parlo di investimenti in borsa per due motivi. Innanzitutto, mentre fino a pochi anni fa erano pochissimi i cittadini che investivano in azioni, oggi è un fenomeno di massa, perché giornali e TV continuano a parlare delle borse in maniera direi preponderante e appena compri un telefonino, il primo servizio preinstallato, ancora prima del meteo, è proprio il servizio che ti mostra l'andamento dei principali titoli, come se tutti dovessimo investire in borsa. Il secondo motivo è che ci molta moltissima disinformazione, e lo vedremo insieme. Partiamo da un dato. Un investimento dovrebbe generare un profitto lordo attorno al 5%. Questo è un numero abbastanza assodato. Se uno mette in affitto una casa da 200.000 euro, l'affitto sarà attorno ai 900.000 euro al mese, per un rendimento annuo intorno al 5%. Se uno pensa agli affitti, le statistiche dicono che a seconda delle regioni e delle città, mediamente una casa si ripaga in 14-18 anni. Se consideriamo un profitto del 5%, allora ci vorrebbero 20 anni. Quindi vedete che mediamente questa soglia del 5% è diciamo naturale. Anche in passato l'affitto richiesto ai mezzadri per coltivare i terreni era attorno a questo fatidico 5%. Anche quando si investe in borsa, un rendimento sicuro dovrebbe essere attorno appunto al 5%. Infatti normalmente per vedere se un titolo è sopravvalutato o sottovalutato si prendono i profitti, li si divide per il numero di azioni e si moltiplica per 20. Il valore ottenuto dovrebbe corrispondere alla quotazione delle azioni sul mercato finanziario. Ma quando investite in borsa c'è fin dall'inizio un vincitore, la banca o il fondo di investimento. Io pago una commissione pari al 2 per 1000 con un massimale di 18 euro per ogni operazione eseguita. Quando investo 5.000 euro pago 10 euro di commissione. Se il titolo sale del 2% di solito vendo, porto a casa 100 euro da cui devo detrarre i 10 euro di commissione in acquisto e i 10 euro di commissione in vendita, quindi mi restano 80 euro. La commissione del 2 per 1000 è una commissione che la banca mi applica dal 2006. Purtroppo molti nuovi conti corrente chiedono un minimo di 18 euro ad operazione. Diciamo che è un poco dispendioso investire con commissioni così alte. Cercate di negoziarne di più basse. Il punto invece su cui vorrei soffermarmi è di non investire in fondi. Che siano fondi di investimento oppure fondi di pensione integrativa, in questo tipo di investimenti c'è un solo vincitore, il fondo. Infatti qualsiasi fondo applica una commissione del 2%, quindi per ogni 100 euro che investite ne rimangono 98, che il gestore dovrà far fruttare, ma il gestore di solito non è più bravo di voi. Se scegliete un profilo di rischio basso, quindi preferite investimenti sicuri, il gestore vi farà guadagnare al massimo l'1% o il 2% se va bene. I vostri 98 euro diventeranno 99,55 euro, da cui verranno detratti altri 2 euro di commissione e inizierete il secondo anno con 97,50 euro e così via fino a quando dopo 20 anni avrete perso gran parte del capitale investito. Per farvi un esempio, quando lavorava a Londra, l'azienda ha proposto come benefit un fondo pensione integrativo. dove per ogni stellina investita dal dipendente l'azienda ne avrebbe versato lei stessa una a beneficio del dipendente. Per me era uno specchietto per la lodole che avrebbe distrutto la ricchezza mia e dell'azienda, e non ho investito neanche in questo caso dove l'azienda mi avrebbe regalato gli stessi soldi che avrei investito. E una volta che questo capitale verrà eroso, il gestore vi proporrà investimenti più rischiosi che dovrebbero affrontare di più, ma potrebbero solo accelerare le perdite. Ma che cos'è il rischio? Giusto per proporvi un esempio, ritorniamo alla regola che un investimento deve rendere il 5% e quindi ogni azione di una società deve valere 20 volte l'utile per azione. Un'azione della Ryanair che oggi quota a 12 euro ha un utile di 1,2 euro per azione. Quindi un'azione vale soltanto 10 volte l'utile e sembra sottovalutata. Ma il livello di rischio nel trasporto aereo è altissimo, visto che i passeggeri possono decidere di prenotare voli con altre compagnie, la concorrenza è fortissima e i costi variabili a seconda del costo del petrolio. Perciò non potrete mai una compagnia aerea con una quotazione pari a 20 volte l'utile. Sarà sempre diverso. Invece le banche sono un investimento sicuro, le banche non falliscono quasi mai e sono protette dai governi. Per esempio, io investo su Credito Emiliano, che è quotata a 5 euro e darà un dividendo di 20 centesimi all'azione, che corrisponde a un rendimento del 4%. Se la banca distribuisse tutto l'utile, il dividendo sarebbe ancora più alto, ma non società non distribuiscono quasi mai tutto l'utile. Il rapporto tra prezzo dell'azione utile, nel caso del Credito Emiliano, è di 9, che è incredibilmente basso, per cui questo è assolutamente il momento di comprare le azioni Credem, perché il loro valore crescerà, penso possa arrivare tra i 5,50 euro e gli 8 euro. Quindi se investite adesso che valgono 5 euro, nell'arco di al massimo 2 mesi ci sarà almeno un momento in cui varranno tra il 10% e il 60% in più, mi baso sugli andamenti storici. È soltanto la speculazione che tiene il prezzo così basso, ma non credo sia possibile che investendo adesso ci rimettiate dei soldi. Quel titolo vale di più perché la banca è solida, produce utili, distribuisce un dividendo del 4%. Quindi non affidatevi ad un gestore che investe i vostri 98 euro in 98 società diverse, ma scovate un titolo sottovalutato, come il Credito Emiliano, investiteci voi direttamente. Così, ma che vada, risparmierete le commissioni del 2% del fondo di investimento di averne altri. Gran parte di coloro che vogliono investire nei fondi ve lo dicono perché loro guadagnano dalle commissioni al sicuro, oppure perché se voi investite tanto in fondi di azioni, loro vedono salire il valore dei loro investimenti e stabiliscono questo valore. Quando vi legge non avete tempo per studiare il risultato. Benissimo. A parte che la strategia migliore è di investire sulla azienda che conoscete. Io ho un sito su Ryanair, e inoltre un Credito Emiliano, che sono qui a dire, se lo conoscete ce ne piace. Non avete più tempo per dedicare allo studio dei titoli, investite in BTP, buoni tesori biennali. Le TV e i giornali vi dicono che il BTP è uno strumento complesso, quindi se le scadenze trentennali non sono adatte al piccolo investitore. Allora, sicuramente i buoni del tesoro sono complessi, perché è diverso se li comprate ad un valore più alto o più basso del nominale, perché tipicamente in acquisto pagate gli interessi maturati tra l'erogazione dell'ultima cedola e il giorno di acquisto del BTP. E poi li ottenete questi soldi nel giorno in cui vendete. Ed è vero che il rischio è alto, tuttavia facile da valutare, come vedremo nei prossimi minuti. Ma questi sono dettagli, innanzitutto il rischio che l'Italia non li paghi il proprio debito, ed è un rischio minore rispetto a praticamente tutti i rischi che correte se investite in azioni di aziende italiane, perché banalmente se lo Stato italiano rischia il fallimento, prima di quel fallimento lo Stato per livellare le ricchezze di tutti i cittadini e imprese italiane. Inoltre, gli scambi che avvengono sui BTP trentennale sono nell'ordine di 10 o 100 milioni di euro al giorno, quando invece noi piccoli risparmiatori investiamo qualche migliaio di euro. Quindi nel giro di un minuto potete riavere i vostri soldi disponibili sul conto, anche se investite su scadenze lunghe come BTP trentennale. Se andate sul sito rendimentibtp.it vedete che un BTP trentennale rende un bel 3,16% netto. Ora, io investo quando il rendimento netto vale a 3,3%, quindi non investite oggi, perché se voi volete i soldi indietro nel giro di pochissimi giorni, c'è il rischio che il valore del vostro investimento possa perdere il 2%. Però se avete soldi che potete lasciare investire tanto vi portate a casa un credito della 16%, corrisponde ad un rendimento del 5-700 se non sono investiste in una casa, e poi nei prossimi mesi il vostro investimento potrebbe valere un 3% più, quindi non investe un ulteriore più difficilmente il vostro investimento continuare a meno. Ok, i BTP sono ossi dall'inflazione, anche la situazione. E l'inflazione sta scendendo, l'economia è un pochettino ripresa. E sono mossi dal rischio paese, che in questo momento è sopravvalutato, perché non c'è pericolo che l'Italia non ripaghi i propri debiti. Abbiamo un sistema pensionistico molto più solido e sostenibile di quello tedesco. Se vi dicono di non investire in BTP è perché i grandi investitori preferiscono tenersi profitti, che sono notevoli, visto che un rendimento superiore al 3% netto è un lusso su un investimento così sicuro. O almeno voi da italiani siete informati su come entrare l'economia italiana e potete arrivare alle vostre personali conclusioni, mentre non sapete nulla o quasi nulla quando investite su un'azienda cinese o americana. Perciò non fatevi fregare, investite tranquillamente in BTP. E dopo questo lungo discorso vi lascio con una canzone e vi auguro una buona notte. Avversi soffiano sulla nostra fiaccola, si spengono sogni in un cassetto di un castello per noi diventato bettola, come una favola non si modifica, versa l'ultima lacrima prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore, dove non c'è più sole e l'aria è gelida, resto solo alla mia tavola pensandoti, sento già i brividi, adesso abbracciami, basta nascondersi dietro parole a volte inutili. Si è spento il fuoco che scaldava i nostri cuori credici, ho il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano, non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano segna l'epilogo, ricordi che dentro le tue lacrime nascondono l'ultimo fremito. Spiegarmi, adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato. sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa, adesso ascolta, ciò che conta è non bagnare con le lacrime una fiamma morta che si è già spenta. Potremo piangere domani senza che l'altro ci senta e attenta. Questo non vuol dire che sia solo tu a soffrire, ma penso che star male adesso non possa servire per poterci riunire. Non è che voglia fuggire, ma preferisco non mentire, è tardi per capire. Perché ad un tratto è arrivato il maledetto freddo che col suo ghiaccio ha coperto ciò che abbiamo fatto e detto, e nel suo viaggio si è portato il nostro caldo. Con te vivevo un sogno, ma ora sono sveglio. Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? Prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola. Dimmi che era un sogno e ci stiamo svegliando. Con te vivevo un sogno, ma ora sono sveglio. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora da stare insieme è finito. Abbiamo capito, che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.